quitará. La senti questa voce che canta nel mio cuore, amore, amore, amore, per quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ha avuto dalla vita, e il tuo sorriso giovane sei tu. Bella lei una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Sempre più, sempre più. La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore, amore, amore, amore, per quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono i fiori, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, a colpa sei tu. La prima cosa bella che ha avuto dalla vita, per tuo sorriso giovane sei tu. Bella di una stella, la notte si è schiarita, il cuore senti questa voce, chi canta è il mio cuore, amore, amore, amore, per quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. La prima cosa.